5C. Ascolta e trasforma. Ha scritto una relazione. Hanno scritto una relazione. Ha risposto al telefono. Hanno risposto al telefono. Ha chiesto informazioni. Hanno chiesto informazioni. Ha messo i vestiti in lavatrice. Hanno messo i vestiti in lavatrice. Non ha perso tempo. Non hanno perso tempo. Non ha risolto il problema. Non hanno risolto il problema.